Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, la trasmissione di Radio 24 che porta on air le storie dei giovani professionisti italiani espatriati per potersi affermare professionalmente. La nostra inchiesta a puntate su questa fetta di Italia, giovane, internazionale e dinamica, che non ha trovato purtroppo nel nostro paese quegli sbocchi professionali adatti alla propria preparazione accademica e lavorativa e che proprio per questo è stata costretta ad emigrare, andando ad arricchire con le proprie competenze altri paesi, aggiunge oggi una nuova puntata. Non conoscevo nessuno a Barcellona e non conoscevo nessuno a Softonic, quindi mi sembrava abbastanza difficile. Ma che succede? Dopo un test che feci online, un colloquio che durò 40 minuti e che a mio modo di vedere è anche andato male, mi presero e il mio capo di allora mi disse che il mio modo di scrivere, che era riuscito a leggere su uno dei miei blog, era quello che ci voleva per il sito, che vedeva che avevo talento e che mi dava fiducia. E quindi mi diede quel posto di lavoro. Sabina Pulvirenti, siciliana, vive e lavora a Barcellona, la nuova Mecca per migliaia di giovani italiani under 40 che scelgono di emigrare. La capitale catalana è da anni tra le mete più gettonate per chi cerca un ambiente dinamico dove poter vivere e lavorare. A Barcellona Sabina svolge un lavoro di direzione dei contenuti per un sito web. Ma iniziamo col nostro notiziario. Sono 1.147.492 gli italiani tra i 20 e i 40 anni che risiedono all'estero. Ben 316.572 di loro sono emigrati dall'Italia tra il 2000 e il 2010, alimentando il flusso della nostra nuova emigrazione al ritmo in media di oltre 30.000 l'anno. Sono questi i dati forniti a Giovani Talenti dall'anagrafe degli italiani all'estero. Ne parleremo all'interno di Spazio Emigranti. Cade a fine febbraio il bando MINT destinato agli italiani residenti in Messico, imprenditori o manager di PMI e disoccupati, in particolare i giovani. Per gli imprenditori il progetto offre l'occasione di rafforzare competenze utili per le strategie di mercato, mentre ai giovani non occupati il programma offre l'opportunità di sviluppare una professionalità. Il bando è disponibile all'indirizzo www.tagliacarne.it/mint. Talenti di rientro e talenti in movimento. Partiamo dai primi. Grazie a un finanziamento della Fondazione Giovanni Arminese Harvard, due giovani ricercatori verranno in Italia, all'Istituto San Raffaele di Milano, per proseguire le ricerche cominciate negli Stati Uniti. Il primo di loro è un cervello di ritorno. Si tratta di Matteo Iannacone, attualmente Senior Research Associate presso la Harvard Medical School. Talenti in movimento, ora due laboratori congiunti tra Italia e Israele per svolgere ricerche in comune e scambiarsi ricercatori, il primo nel campo delle neuroscienze, l'altro in quello degli atomi freddi, delle tecnologie quantistiche. Questo il risultato dell'incontro svoltosi a Gerusalemme tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e i massimi rappresentanti di università ed enti di ricerca locali. La durata dell'accordo è di 5 anni, durante i quali sono previsti 60 mesi di borse postdottorali a favore di giovani scienziati. E si parlerà molto di giovani talenti italiani che innovano a livello globale nel corso del convegno Side Leaders, l'Italia che innova, in programma venerdì prossimo al Museo dell'Ara Pacis a Roma. 10 interviste ad altrettanti giovani imprenditori e manager che svelano il segreto del loro successo. Si inizia alle 16. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel cuore della Spagna del Nord, in quella Barcellona che, nonostante la crisi, resta sinonimo di modernità e di un'Italia che forse molti nostri giovani desidererebbero. Nome: Sabina. Cognome: Pulvirenti. Età: 30 anni. Città di origine: Acireale, provincia di Catania. Studi: Lettere moderne con indirizzo storico, poi thesis, infine master in comunicazione web e nuovi media. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Barcellona. Perché? Perché avevo trovato il tipo di lavoro che desideravo. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore di contenuti. Dove? Su www.softonic.it. Tornerai? Forse, se le cose cambiano, se cambio io. Barcellona. No puedo seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcellona. Giovani neolaureati, spesso delusi dal panorama politico e sociale dell'Italia e dalla mancanza di opportunità professionali in patria, vedono in Barcellona la città giovane, dinamica ed efficace che non trovano più nel loro paese. Così il sito Barcellona Blog dipinge la nuova emigrazione italiana nella capitale catalana, da diversi anni la nuova capitale appunto scelta dagli under 40 del nostro paese. Il consolato italiano ci ha fornito qualche cifra. Gli italiani iscritti all'anagrafe consolare sono poco più di 29.000 nell'intera regione della

They're the most powerful weapons we have. You didn't answer my question, though. As long as you keep questioning. Mrs. Clinton, can you give us an interview? So will we. That's a good question. Killer questions, domande killer, o meglio domande che non lasciano scampo, di cui la BBC va fiera in questo spot che avete appena ascoltato. James Fontanella, 27 anni, corrispondente da Mumbai del sito financialtimes.com, giovane italiano emigrato fino in India per lavorare per uno dei più prestigiosi gruppi editoriali globali. In Italia James forse non è solamente sempre più difficile fare domande che non lasciano scampo, ma forse è persino quasi impossibile per un aspirante giornalista arrivare a farle, no? Questo mi sembra essere il problema principale in Italia per molti giornalisti, che trovano sempre più difficoltà a penetrare questo mondo che certi l'hanno descritto come una casta. Insomma, è appunto, è difficilissimo capire come si riesce a far parte di questa comunità. E un po' Sabina con la sua storia ci ha spiegato appunto quali sono gli vari ostacoli che molti giovani devono affrontare. Sabina, c'è qualcosa che vorresti chiedere a James Fontanella? Quali difficoltà hai incontrato tu e come sei riuscito a diventare giornalista? Diciamo che la mia prima esperienza così da giornalista apprendente era quando ero nel mio paesino in provincia di Pavia e volevo scrivere un articolo contro l'amministratore pubblico e più che altro contro il Partito Democratici di Sinistra allora, e mi dissero che ero troppo giovane per cominciare a criticare, che dovevo imparare dal basso, stare più tranquillo e non sbraitare. E allora insomma sono andato in Inghilterra a fare l'università, ho cominciato a collaborare con certe testate, diciamo, minori come corrispondente sempre non pagato, e a un certo punto sono arrivato a 21 anni dove avevo voglia di avere una certa indipendenza economica e ho capito che comunque insomma non ce la facevo ad entrare nel circolo dei giornalisti italiani. Appunto mi ci volevano quei 70-80 articoli per diventare pubblicista, molti mi dicevano tu scrivi, noi ti mandiamo le ricevute false, roba di questo genere. Allora mi sono iscritto a una scuola di giornalismo in Inghilterra, durante il midterm ho fatto domanda al Financial Times per fare un cosiddetto internship e dopo meno di 2 settimane mi sono trovato con uno scoop in prima pagina. Che scoop, James, raccontaci? Che scoop hai fatto? Mi ha detto, senti, se ti va puoi restare con noi. James, che scoop hai fatto? Ma era una storia che, diciamo, non era una hardcore FT story. Riguardava un ragazzo che aveva messo in piedi un sito dove vendeva dei pixel, che sono dei piccoli spazi su un sito, ne vendeva 1 milione. L'idea era quella di cercare di raccimolare $1 milione per potersi finanziare gli studi universitari, ed era un'idea così leggermente folle. E quindi io avevo scritto una storia quando lui aveva venduto i suoi ultimi 1000 pixel per $160,000 su eBay, e nel giorno in cui dovevo intervistarlo insomma era successo un grande problema, era venuto fuori che il suo sito era stato preso in ostaggio da degli hacker russi. E niente, io ero l'unico a sapere di questa storia e il giornale lo trovava interessante perché non era solamente la storia di questo ragazzo il cui sito veniva appunto rubato, preso in ostaggio, ma era un problema che molti giovani imprenditori che lavoravano sul web affrontavano, e quindi era una storia più generale che è piaciuta al direttore, l'ha messa in prima pagina. E tu, diciamo, carriera. James, nonostante fossi poco più di 20 anni, sei finito in prima pagina, cosa difficile, ma qui almeno in Italia. Ma James, facci capire quanto è diverso il mercato del lavoro giornalistico in un mondo anglosassone come quello inglese e quello italiano. Un giovane inglese che voglia fare giornalismo, le trova le offerte di lavoro sui giornali? Più che sui giornali, probabilmente al giorno d'oggi si trovano sui siti web, sui siti dei giornali. Però le trova. Se uno apre, sì, le trova. Uno va sul sito del Financial Times piuttosto che il Wall Street Journal, va in basso e trova jobs@wsj.com e uno insomma poi vede se c'è qualche lavoro che gli interessa o meno. Poi per quanto riguarda i giovani, che era un punto che aveva menzionato anche Sabina prima, ogni anno il Financial Times per esempio mette un bando dove prende almeno 3 giovani sotto diciamo i 27 anni e lo fa, l'ha fatto prima, durante, lo fa anche adesso dopo comunque che stiamo uscendo dalla crisi, quindi c'è un ricambio costante e i giovani fanno parte del tessuto sociale di un paese, quindi non c'è nessun motivo per cui non dovrebbero far parte del mondo del giornalismo. James, in una battuta solo, ma ti piace la stampa italiana vista dall'estero? No. Perché? Perché la trovo un gioco di partiti, la trovo sempre molto autoreferenziale, un gioco tra pochi intimi.

mesi. I comuni sono quelli competenti alla tenuta dell'anagrafe, esistono schedari ovviamente anche presso i consolati. L'esercizio del voto è stato effettivamente il primo motivo anche per istituire questa anagrafe, perché i cittadini che residono all'estero hanno diritto a esercitare il voto in tutte le consultazioni elettorali. Per iscriversi bisogna compilare un modello che viene consegnato dal consolato, che si chiama Consuno, in cui ci sono tutti i dati. E vi ricordiamo che potrete trovare tutte le informazioni utili sull'anagrafe degli italiani all'estero al sito www.interno.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: quanto è grave secondo voi il problema della fuga dei talenti all'estero e quanto incidono le difficoltà che incontrano i giovani oggi in Italia sui motivi dell'espatrio? Queste le vostre risposte. Melissa: credo che se un paese non sa investire nei giovani, talenti e non, è più che legittimo che questi vadano alla ricerca di qualcuno che creda veramente in loro e li faccia realizzare anche all'estero. Carmela: io posso dire che sono cresciuta nella convinzione che i bravi ce la fanno, i bravi ottengono ciò che vogliono a patto di mettercela tutta. E su di me ha funzionato, almeno fino alla fine dell'università e del praticantato. Poi, il nulla, una ricerca del lavoro che si contorce su se stessa, che si alimenta di frasi ricorrenti. Come deve sentirsi ora Carmela? Deve prendere il primo volo per l'Australia? Una parte di lei vorrebbe, ma sa che la sua vita è qui, i suoi affetti e anche i suoi doveri. Avrei molto da aggiungere, ma ho troppa paura di sprofondare nello sconforto e trasmettervi la sensazione di una che si piange addosso. E non è il mio caso. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione e prendiamo spunto da una frase di Sabina, la protagonista espatriata a Barcellona di questa puntata. Dice Sabina: io il capo non l'avevo mai fatto e penso tuttora di non esserne capace. È stata l'Italia però a mettermelo in testa, ma qui in Spagna hanno creduto in me e adesso comincio a crederci anch'io. Culturalmente, ed è ciò che vi chiediamo, l'Italia tende a non responsabilizzare i suoi giovani, a non farli credere in se stessi o, più banalmente, se non hai 40 anni non sei nessuno? Per rispondere e contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online. Non dimenticate giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.